Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Come gli annetti si avvicendavano, nel Bergof cominciò ad aggirarsi qualcosa, uno spirito, del quale Castorp intuì la diretta discendenza dal demone di cui abbiamo menzionato il nome maligno. Con l'irresponsabile curiosità di chi viaggia per imparare, aveva studiato quel demone, trovando persino dentro di sé sospette possibilità di partecipare largamente al mostruoso servizio che i contemporanei gli dedicavano. Dato il suo carattere, era poco adatto a favorire l'andazzo dilagante, che d'altronde, proprio come quello precedente, c'era sempre stato in germe e in sporadici accenni. Ciò nonostante, notò con spavento che anche lui, appena si lasciava andare, era nell'aspetto, con la parola, nel contegno, vittima di un'infezione, alla quale intorno a lui nessuno sfuggiva. Il dilagante contagio che Castorp stava osservando esercitava anche sulla limpida mente del massone Settembrini un potere che gli toglieva la voglia di ridere e gli faceva accogliere con serietà gli sferzanti stimoli della gara di schiaffi. Oltre a ciò, l'assertore della vita era depresso dal suo stato di salute, che ad agio e con burlevoli ritorni verso il miglioramento, ma irresistibilmente volgeva al peggio. Egli lo malediceva e se ne vergognava con rabbia e disprezzo di se stesso, ma ormai, a brevi intervalli, gli toccava restare a letto. Nafta, il suo coinquilino e antagonista, non stava meglio di lui. Anche nel suo organismo progrediva quella malattia che era stata il motivo fisico, o dobbiamo dire il pretesto, perché la sua carriera nell'ordine venisse così precocemente interrotta, e le alte e sottili condizioni nelle quali viveva non potevano impedire che essa guadagnasse terreno. Peggio fu quando Nafta prese a parlare della scienza, nella quale non credeva. Non ci credeva, spiegò, perché l'uomo è liberissimo di crederci o no. Essa è una fede come un'altra, soltanto peggiore e più stupida di qualunque altra. E lo stesso vocabolo scienza è l'espressione del più sciocco realismo, che non si vergogna di prendere o spendere per moneta sonante le immagini più che problematiche degli oggetti riflessi nell'intelletto umano e di ricavarne il più insulso e sconsolante dogmatismo che si sia mai tentato di far digerire all'umanità. O non è il concetto di un mondo sensibile esistente in sé e per sé la più ridicola di tutte le autocontraddizioni? La fisica moderna, invece, in quanto dogma, vive esclusivamente del presupposto metafisico che le forme gnoseologiche della nostra mente, spazio, tempo e causalità, nelle quali si svolge il mondo fenomenico, siano condizioni reali, esistenti, indipendentemente dalla nostra conoscenza. Questa tesi monistica è la più palese impudenza che sia mai stata ammannita allo spirito. Spazio, tempo e causalità in linguaggio monistico. Evoluzione. Ecco il dogma centrale della pseudo-religione degli atei e liberi pensatori, con la quale si crede di abolire il primo libro di Mosè e di contrapporre a una favola cretina un sapere illuminante. L'empirismo. L'etere universale sarebbe esatto. L'atomo, questo grazioso scherzo matematico della più piccola particella indivisibile, è forse dimostrato? La dottrina dell'infinità dello spazio e del tempo è certo fondata sull'esperienza, no? Infatti, presupponendo un po' di logica, si arriverà a esperienze e risultati allegri col dogma dell'infinità e realtà dello spazio e del tempo, cioè al risultato del nulla, cioè alla comprensione che il realismo è il vero nichilismo. Perché? Per la semplice ragione che il rapporto fra qualsiasi grandezza e l'infinito è uguale a zero. Un pomeriggio di febbraio si convenne di fare un'escursione a Monstein, una località a un'ora e mezzo di slitta dalla loro sede. Erano Nafta e Settembrini, Castorp, Ferge e Vesal. In due slitte a un cavallo, Castorp con l'umanista, Nafta con Ferge e Vesal, il quale occupava il posto accanto al conducente, partirono, bene imbacuccati, alle tre, dal domicilio degli esterni e col tintinnio dei sonagli che si diffonde così gentile nel tacito paesaggio nevoso, presero verso sud la strada del versante di destra, passando da Frauenkirk e Glaris. Da quella parte avanzò rapidamente una cortina di neve, di modo che dopo un po' non rimase che una sola striscia di celeste pallido sopra la catena del Raticon. Il gelo era pungente, la montagna nebbiosa. La strada per la quale passavano, uno stretto ripiano fra la parete e l'abisso, senza parapetto, si levava alta in una vetaia selvaggia. Procedevano a passo d'uomo. Incontravano spesso slittini in discesa, i cui occupanti all'incontro erano costretti a smontare. Dietro alle svolte tintinnava il delicato avvertimento di sonagli altrui. Si incontravano slitte con due cavalli, l'uno dietro all'altro, e si doveva usare molta cautela nel sorpasso. Vicino alla meta si aprì la bella veduta di un tratto roccioso sulla strada di Zügen. Si liberarono dalle coperte davanti alla piccola locanda di Monstein e, lasciate le slitte, fecero ancora alcuni passi per ammirare, verso sud-est, la vista dello Stulzergrat. La gigantesca parete, alta 3.000 metri, era avvolta nella nebbia. Soltanto qualche guglia emergeva dai vapori contro il cielo, ultraterrena, inaccessibile, lontana e sacra come un Valhalla. Castorp espresse la sua ammirazione e invitò anche gli altri a farlo. Era stato lui a pronunziare con un sentimento di sottomissione la parola inaccessibile, offrendo a Settembrini il destro di far notare che quella roccia era stata naturalmente già scalata. In genere si può dire che l'inaccessibilità non esiste più, né ci sono posti in natura dove l'uomo non abbia messo piede. Piccola esagerazione e smargiassata, ribeccò Nafta, e nominò il Monte Everest, che fino a quel momento aveva opposto all'impertinenza dell'uomo il suo gelido rifiuto e pareva volesse insistere nel riserbo. L'umanista si indispettì. Il gruppo ritornò alla locanda, davanti alla quale, accanto alle proprie, c'erano in sosta altre slitte, senza cavalli. Là si poteva trovare anche alloggio. Al piano superiore c'erano camere d'albergo numerate, e vi si apriva la sala da pranzo, rustica e ben riscaldata. I gitanti ordinarono alla servizievole padrona uno spuntino, caffè, miele, pane bianco e pane con pere, la specialità del luogo. Ai conducenti mandarono del vino rosso. Alle altre tavole erano seduti ospiti svizzeri e olandesi. Stavamo per dire che a quella dei nostri cinque amici, il calore dato dall'ottimo caffè bollente diede la stura a una conversazione elevata. Ma non avremmo detto bene, perché quella conversazione fu a rigore un monologo di Nafta, il quale, dopo alcune parole proferite dagli altri, lo sostenne da solo. Un monologo svolto in maniera molto strana e urtante sotto l'aspetto sociale, perché l'ex gesuita, montato amabilmente in cattedra, si rivolgeva sempre e soltanto a Castorp, voltava le spalle a Settembrini, che aveva all'altro fianco, e trascurava del tutto gli altri due. Sarebbe difficile dare un nome all'argomento della sua improvvisazione, che Castorp seguì annuendo fra il sì e il no. A dire il vero non svolse un tema unico, ma si aggirò senza rigore nel mondo dello spirito, sfiorando vari punti e in sostanza mirando a dimostrare in modo scoraggiante l'ambiguità dei fenomeni spirituali della vita, la natura iridescente e l'inutilità polemica dei grandi concetti che se ne desumono, e a far rilevare in quale veste cangiante si presenti l'assoluto su questa terra. Semmai si potrebbe ridurre la sua lezione al problema della libertà, che egli presentò come causa di confusione. Tra l'altro parlò del romanticismo e dell'affascinante doppio senso di questo movimento europeo al principio del secolo XIX, di fronte al quale i concetti di reazione e rivoluzione sfumerebbero se non si unissero in un concetto superiore. È quanto mai ridicola, si intende, la pretesa di collegare il concetto di rivoluzione esclusivamente col progresso e col vittorioso e aggressivo illuminismo. Il romanticismo europeo fu anzitutto un moto di libertà, anticlassico, antiaccademico, volto contro il vecchio gusto francese, contro la vecchia scuola della ragione, di cui beffava i paladini, chiamandoli parrucconi incipriati. E Nafta venne a parlare delle guerre di liberazione, degli entusiasmi fichtiani, di quella ebbra e canora sollevazione popolare contro un insopportabile tirannide che purtroppo incarnò soltanto la libertà. Vale a dire le idee della rivoluzione. Divertente. Cantando a gran voce si era partiti per abbattere la tirannide rivoluzionaria in favore della spada reazionaria dei sovrani e lo si era fatto per la libertà. Libertà, disse, è forse ancora un concetto romantico piuttosto che illuministico, poiché il romanticismo ha in sé l'inestricabile intreccio fra umanitarie tendenze espansionistiche e appassionata e restrittiva affermazione dell'io. L'aspirazione individualistica alla libertà ha prodotto il culto storico romantico della nazionalità, il quale è bellicoso, mentre il liberalismo umanitario lo definisce tenebroso, benché anche questo insegni l'individualismo, ma soltanto per vie un po' diverse. D'altro canto, l'individualismo è parte dell'umanesimo liberaleggiante, il quale tende all'anarchia e in ogni caso deve proteggere il caro individuo affinché non sia sacrificato alla comunità. Questo sarebbe l'individualismo, una cosa, ma anche l'altra. Un vocabolo solo per più concetti. Nafta continuò. Bisogna concedere che il pathos della libertà ha prodotto i più brillanti nemici della libertà, i più intelligenti cavalieri del passato nel conflitto con l'irrispettoso e disgregante progresso. E il misticismo non ha forse niente a che vedere con la libertà. Non è stato forse antiscolastico, antidogmatico, antisacerdotale? Certo, siamo costretti a riconoscere nella gerarchia un potere di libertà, perché ha eretto un argine contro la monarchia assoluta. Il misticismo del tardo Medioevo, però, confermò il suo spirito di libertà in quanto precursore della riforma. Della riforma, che a sua volta è inscindibile tessuto di libertà e reazione medievale. L'azione di Lutero, sì, ha il pregio di dimostrare con la più cruda evidenza la problematica natura dell'azione stessa, dell'azione in genere. Lo sa lei che cosa sia un'azione? Un'azione è stata, per esempio, l'assassinio del consigliere di Stato Kitzbühel da parte dello studente Sand. Che cosa, per dirla col linguaggio criminologico, armò la mano del giovane Sand? E l'entusiasmo per la libertà, ovviamente. Ma chi guardi meglio, non fu questo, bensì il fanatismo morale e l'odio contro la frivolezza antipopolare. Vero è, d'altro canto, che Kitzbühel era al servizio dei russi, cioè della Santa Alleanza, e perciò Sand vibrò davvero il colpo per la libertà. La qualcosa diventa poi inverosimile per il fatto che tra i suoi migliori amici c'erano dei gesuiti. Breve, qualunque cosa sia, l'azione è in ogni caso un brutto mezzo di farsi notare, e a chiarire problemi spirituali contribuisce ben poco. Permette che mi informi se conta di finirla presto con le sue scurrilità? La domanda era stata formulata da Settembrini con asprezza. Era stato lì a tamburellare con le dita sulla tavola e ad arricciarsi i baffi. Ora non ne poteva più. La sua pazienza era esaurita. Era seduto col busto ritto, più che ritto, pallidissimo. Si era rizzato, per così dire, sulla punta dei piedi, sicché soltanto le cosce toccavano il sedile, e così, col lampo degli occhi neri, affrontò l'avversario che con finto stupore si era voltato a guardarlo. «Scusi, cosa si è compiaciuto di dire?» domandò Nafta a sua volta. «Mi sono compiaciuto», rispose l'italiano mandando giù la saliva, «mi compiaccio di avvertirla che sono deciso a impedirle di molestare ancora con le sue ambiguità un giovane inerme». «Signore, la invito a misurare le parole». «Di un simile invito, signor mio, non c'è bisogno. Sono avvezzo a misurare le mie parole, e la mia parola risponde esattamente ai fatti. Se dico che la sua maniera di turbare, nello spirito, sedurre e svigorire sul piano morale la gioventù già vacillante è un'infamia, e non ci sono parole abbastanza severe per castigarla». Nel silenzio si udirono stridere i denti di Nafta. Un rumore terribilmente sgradevole, selvaggio e bizzarro, che però era pur sempre indizio di un pauroso dominio di sé, talché invece di gridare, egli parlò a voce bassa, soltanto con una specie di mezza risata ansimante. «Infamia! Castigare! Oh, che gli asini puritani diventano suscettibili! La pedagogica polizia della civiltà è arrivata al punto da sguainare la spada! Un bel successo, direi, per cominciare! Ottenuto senza difficoltà, aggiungo con disprezzo, perché è bastato un modico motteggio per far saltare la mosca al naso alla sentinella della virtù!» Il resto si vedrà, egregio signore. Anche il castigo, anche questo. Spero che i suoi principi civili non le impediscano di sapere che cosa mi deve. Altrimenti sarei costretto a mettere alla prova codesti principi con mezzi che... L'atteggiamento impettito di Settembrini lo fece proseguire. Ah, vedo che non sarà necessario. Io sono di ostacolo a lei, lei a me. Bene, accomoderemo questa piccola differenza a suo luogo. Per il momento una cosa sola. Il suo bigotto timore per lo stato scolastico della rivoluzione giacobina scorge nel mio metodo di far dubitare la gioventù, di mandare a catafascio le categorie e di togliere alle idee la loro dignità accademica. Un delitto pedagogico. Codesto timore è fin troppo giustificato, perché il suo spirito di umanità, stia sicuro, è spacciato. Spacciato e liquidato. Già oggi non è che un atteggiamento codino, un'assurdità classicistica, una noia dello spirito che provoca soltanto sbadigli convulsi. A sgomberarla, penserà, signor mio, la nuova, la nostra rivoluzione. Se noi, in quanto educatori, poniamo il dubbio più in fondo di quanto il vostro modesto illuminismo abbia mai sognato, sappiamo molto bene quel che facciamo. Soltanto dalla scepsi radicale, dal caos etico, sorge l'assoluto, il sacro terrore di cui il nostro tempo ha bisogno. Questo a mia giustificazione e sua istruzione. Il resto non c'entra. Le farò avere mie nuove. Saranno ascoltate, signore! Gli gridò dietro Settembrini. Mentre quello lasciava la tavola e correva all'attaccapanni per ritirare la pelliccia. Il framassone si abbandonò sulla sedia e si premette le mani sul cuore. Distruttore! Cane arrabbiato, bisogna ammazzarlo! Proruppe col fiato corto. Gli altri erano ancora presso la tavola. I baffi di Ferge continuavano ad andare in su e in giù. Vesal aveva la mandibola storta. Castorp si reggeva il mento imitando suo nonno, perché gli tremava la cervice. Tutti pensavano quanto poco si fossero previsti quegli sviluppi alla partenza. Tutti, compreso Settembrini, pensarono che era una gran fortuna essere venuti con due slitte e non tutti insieme. E ciò facilitava almeno il ritorno. Ma poi... «Le ha lanciato la sfida!» disse Castorpe angosciato. «Direi», rispose Settembrini alzando gli occhi verso il giovane che era in piedi accanto a lui. Poi distolse subito lo sguardo e si prese la testa fra le mani. «Accetta?» volle sapere Vesal. «E me lo chiede?» domandò Settembrini guardando un istante anche lui. «Signori», continuò alzandosi, rincorato, «deploro l'esito della nostra gita, ma nella vita l'uomo deve aspettarsi di questi incidenti. In teoria disapprovo il duello, io sono per le vie legali. La pratica invece è un altro paio di maniche. Ci sono situazioni alle quali contrasti che sono, insomma, a disposizione di quel signore. Meno male che in gioventù ho tirato di scherma. Alcune ore di esercizio mi snoderanno il polso. Andiamo. Sui particolari ci metteremo d'accordo. Suppongo che quel signore avrà già dato l'ordine di attaccare». Castorp, durante il viaggio di ritorno e dopo, ebbe momenti nei quali si sentì venire le vertigini al pensiero della mostruosità incombente, specie quando apprese che Nafta non ne voleva sapere di spada o stocco, ma pretendeva il duello alla pistola. Thank you.